È stata la lotta elettorale presidenziale più dura della Romania democratica dopo la caduta del regime comunista nel 89. Anche se i sondaggi davano come favorito il premier uscente, il socialdemocratico Adrian Stase, con un vantaggio di quasi 12%, a vincere le elezioni per il presidente della Romania è stato il sindaco di Bucarest Traian Băsescu. Băsescu, il rappresentante dell'alleanza di opposizione di centrodestra, Giustizia e Verità, ha sconfitto al ballottaggio di ieri il suo avversario ottenendo 51,23% delle preferenze dopo lo spoglio di 98% dei voti contro il premier uscente Adrian Stase con 48,77%. Nel suo discorso elettorale il nuovo presidente della Romania, Traian Băsescu, ha puntato il dito contro la corruzione generalizzata che a suo avviso avrebbe privato la popolazione degli effetti della crescita economica, un fenomeno con il quale la Romania dovrà fare i conti prima della sua entrata nell'Unione Europea prevista per il 1 gennaio 2007. Sindaco di Bucarest per la seconda volta e rappresentante dell'opposizione di centrodestra, Giustizia e Verità tra i liberali e i democratici, Traian Băsescu, 53 anni, un ex capitano della Marina Commerciale, ha sempre avuto un linguaggio colorito, pragmatico, famoso anche in Europa occidentale per la sua campagna contro i cani randagi di Bucarest. Băsescu è considerato un braccio di ferro della politica romena. Come non stasse, anche Băsescu ha il principale obiettivo l'adesione della Romania all'Unione Europea, ma allo stesso tempo mostra un atteggiamento diverso rispetto ai negoziati. Il governo di Năstase ha appena chiuso i negoziati con l'Unione Europea, negoziati considerati per vari capitoli a sfavore del paese, aggiunge il nuovo presidente della Romania, Traian Băsescu. Tra questi i capitoli che riguardano la concorrenza e l'energia. Per quest'ultimo Băsescu crede che la Romania deve chiedere un periodo di transizione di 10-15 anni. Băsescu si pronuncia quindi per un'adesione all'Unione Europea fatta con dignità, senza favori economici, per ottenere l'appoggio politico dalle poteri europee. Esce quindi sconfitto dalle elezioni presidenziali, inizialmente considerato favorito il candidato socialdemocratico, il filo occidentale Adrian Stase, 54 anni, dal 2000 capo del governo di Bucarest. Stase si è presentato come un europeista, dal linguaggio diplomatico ha puntato sulla continuità delle riforme, sul tasso di crescita economica di quasi 8,1%, ha ricordato che il suo governo ha portato la Romania nella NATO, ma in molti considerano il Partito Socialdemocratico troppo legato ai comunisti. Corruzione e tentativi ripetuti di subordinarsi le istituzioni dello Stato e i rappresentanti dei mass media sono state altre accuse per il Partito Socialdemocratico. Dal presidente della Romania, Traian Băsescu, dipende ora anche la costituzione dell'alleanza di governo. Sarà il presidente del paese a nominare infatti il primo ministro che in seguito formerà la sua equipe di governo. Nelle elezioni parlamentari il partito di Năstase ha conquistato 189 seggi su 469 complessivi, l'alleanza di Băsescu 161, quindi nessuno dei due è in grado di governare da solo. Risultati tra l'altro contestati dall'alleanza di Băsescu, che ha accusato i socialdemocratici di frode elettorale. I politici di Bucarest dovranno negoziare alleanze che in tutte le varianti annunciano comunque una coalizione assai debole dal punto di vista della maggioranza parlamentare. Se avesse vinto il premier Năstase, la coalizione sarebbe stata fatta tra i socialdemocratici, gli umanisti, l'Unione dei Magiari e sempre con l'appoggio parlamentare delle minoranze etniche. Ora però i scenari sono cambiati. Il vincitore delle elezioni presidenziali, Traian Băsescu, ha dichiarato che avrà incontri con tutti i partiti parlamentari, ma che il suo obiettivo rimane di portare l'alleanza di centrodestra, Giustizia e Verità al governo con primo ministro il liberale Călin Popescu-Tăriceanu. Perché questo possa accadere, l'alleanza deve fare un patto con i rappresentanti dei magiari, quotati con 6% dei voti, e gli umanisti, finora in coalizione con i socialdemocratici. A sorpresa, il Partito Umanista ha rilasciato oggi un comunicato in cui ribadisce la sua indipendenza politica e dottrinaria, il che fa pensare che sia disposto a negoziare un'alleanza sia con Băsescu che Năstase. Il partito dell'ultranazionalista Corneliu Vadim Tudor, che rappresenta la terza forza politica in Romania con quasi 13% dei voti, non è preso in considerazione per un'alleanza. E senza una maggioranza parlamentare forte, il rischio di un voto di sfiducia rimane sempre al alto livello. Ora, quando la Romania ha bisogno di un governo forte per poter fare le riforme richieste dall'Unione Europea. Quello che finora sembra certo è che per i prossimi 4 anni la Romania avrà una forte opposizione. Per Amisnet, Mihaela Iordache.